Oh viaggiatori, non so come ringraziarvi. La vostra gentilezza e il vostro coraggio non passeranno inosservati. Prendete questa piccola ricompensa. Potrebbe tornarvi utile più avanti nel viaggio. Avventurieri, il mendicante ha voluto ringraziarvi con un gettone fortuna. Fatene buon uso.